Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Rodrigo Diaz, direttore della 35esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste. Questa volta non dal vivo, ma su Muwis dal 7 al 15 novembre 2020. Rodrigo, ben trovato. Ben trovato te, grazie sempre per la tua sensibilità. Raccontaci questo cambiamento. Alla fine tutto si è riversato sull'online, salvo il premio Malvinas. Il premio Malvinas è un premio che si realizza all'interno di alcune licei nell'ambito della formazione scuola-lavoro. E loro stanno lavorando già da una ventina di giorni, per cui sicuramente già hanno visto tutti i film e saranno in grado sicuramente solo di discutere via internet, via Zoom o via Meet per decidere il film a cui loro conferiranno il primo premio. Sono 87 ragazzi. Il premio Malvina è il premio non sul conflitto bellico, ma sulle ragioni, sui valori che impediscono un conflitto. Il conflitto inteso non solo bellico, ma anche può essere il conflitto in famiglia, laddove viene a mancare il valore della tolleranza, del dialogo, del rispetto, no? Che sono valori universali. L'Inghilterra non vanta questi valori e ogni anno, quando l'Argentina pone in seno all'Assemblea Generale dell'ONU il problema della Malvina, loro, con prepotenza, con mancanza di rispetto di fronte all'opinione internazionale, siccome hanno diritto al veto, perché sono uno dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, mettono il veto e quindi non si discute. E viviamo ancora oggi una situazione di neocolonialismo nell'Atlantico del Sud. E quindi è un premio nobile, molto, dove il cinema è al servizio dell'educazione, della formazione, dell'informazione e della volontà di ingrandire gli orizzonti, in questo caso dei ragazzi del quarto e quinto anno del liceo, e risponde pienamente ai progetti nostri che sin dall'inizio abbiamo concepito il festival. È un qualcosa in più di ciò che per cui si fanno questi eventi, perché questi eventi spesso si fanno per divertimento, cioè per la gente si possa divertire, possa frequentare il cinema, possa gustarsi, ma noi vogliamo che oltre a questo senso ci sia anche un qualcosa in più, e la formazione, l'informazione, l'ingrandimento dell'orizzonte, e poi con la formazione che facciamo in più università, facciamo corsi di formazione sui sottotitolaggio, rafforziamo negli studenti, in questo caso universitari, le lingue, spagnolo, portoghese, inglese, oltre che insegnare la tecnica del sottotitolaggio. Quest'anno sono stati 63 studenti che sono stati coinvolti e hanno sottotitolato 70 film, cioè abbiamo 70 film su 87 in programma sottotitolati in italiano. Un'anomalia del festival, e ragiono sul piano orizzontale prima di andare sul programma, perché è molto importante. Credo che siamo il primo festival al mondo che si permette una cosa del genere. Noi, degli 87 film, 51 film potranno essere visti nell'intera Unione Europea, nel Canada, negli Stati Uniti e nell'intera America Latina, per un totale di popolazione di 1.300.000.000 di persone, e forse qualcosa in più. Questo è una collaborazione meravigliosa fra noi e i produttori, i distributori, i cineasti e le istituzioni pubbliche che hanno creduto a questo progetto, che noi, se ha successo, intendiamo il prossimo anno riproporlo, non a queste dimensioni, ma riservare uno spazio, non so, un terzo del programma, perché possa essere visto su tutta l'Italia almeno, e poi anche nell'Unione Europea e magari anche nelle tre Americhe. Ecco, questa è l'ambizione, questo è un progetto che cammina con vitalità, con un staff meraviglioso che permette una cosa del genere. Da sabato i film rimarranno 24 ore per quelli che non hanno autorizzato oltre l'Italia e 48 ore per coloro che hanno autorizzato l'Unione Europea e le tre Americhe. Quindi è molto ambizioso, è molto curioso, un fatto singolare, unico in ogni latitudine, che intendiamo, ripeto, se avrà successo, di riproporlo in una dimensione minore il prossimo anno. speriamo, perché così vorrà dire che il video sarà andato via. Quest'anno proponiamo, come vi dicevo, 87 film, la sessione, abbiamo un evento speciale con tre film davvero molto particolari, c'è uno su Fidel Castro, Fidel da vicino, di un regista messicano, e racconta l'altro Fidel, quello che non si conosce, quello domestico, no? Cioè, quindi parlano familiari, parlano gente che lo ha conosciuto molto da vicino, e avremo altri film sull'evento speciale come il Tren Popular della Cultura, e questo fa riferimento a un periodo del Cile unico che torna oggi di moda in seguito a ciò che sta avvenendo oggi nel mio paese, visto che io sono un cileno, no? Le grandi battaglie sociali che spero possano finalmente portare al superamento dell'ultima eredità pinochetiana, cioè la Costituzione. Avremo come sempre tanto cinema argentino, del Brasile, del Cile, della Colombia, di Cuba, del Messico, del Perù, del Venezuela, quelli sono i film che saranno nella sezione ufficiale, nella sezione contemporanea ancora l'Argentina, il Perù, la Bolivia, il Brasile, la Colombia, il Costa Rica, il Messico, il Cile, Cuba, Spagna, Messico, República Dominicana, Perù, Uruguay. Avremo una retrospettiva di un grandissimo regista argentino che è Alberto Lecchi, presenteremo sei film suoi, Lecchi, che stanno nella sezione Cinema e Letteratura, bellissimo documentario su Leonardo Padura, il grande scrittore cubano. Presentiamo un film scritto da García Márquez con la regia di Felipe Casas, il messicano, che si chiama El Año de la Peste, cioè l'anno della pandemia, e racconta la storia ambientata in un paesetto sperduto del Messico dove è giunta la pandemia. Ma tutto fu scritto nel 1976. Avremo una trilogia, sono tre film scritti da García Márquez o con la sua supervisione, erano tre film della serie Amores y Delitos, i cui negativi si erano persi, sono stati ritrovati un anno e mezzo fa in un magazzino di una casa di produzione a New York, restaurati e riproposti per la prima volta dopo il restauro a Trieste. Noi rendiamo omaggio a quattro registi che sono scomparsi recentemente, tra cui Jaime Humberto Hermosillo. Di Jaime Humberto Hermosillo proponiamo De Noche Viene Esmeralda, che è una trasposizione cinematografica di un'opera di Elena Poniatowska, la più nota scrittrice messicana, e poi un film che io ho cercato per più di 20 anni, Maria de mi Corazón, che sicuramente è la miglior in assoluto trasposizione cinematografica di un'opera di García Márquez, è una sceneggiatura scritta da García Márquez, che quando io ho realizzato l'omaggio a Jaime Humberto Hermosillo nel 2011, l'avevo chiesto quasi come condizione sine qua non al regista messicano di portarmi Maria del Corazón, e il film non c'era, si era perso, insomma, mille problemi. Il film è stato ritrovato, è stato restaurato e sarà in programma a Trieste, diciamo, online. È una curiosità rispetto a una donna che per sbaglio va a finire il manicomio. Il ringraziamento grande va a Gabriel Reyes, il messicano, che abbiamo l'anno scorso conferito il premio alla carriera, che è morto a marzo scorso, e lasciò il film per Trieste, l'ultimo, che solo è stato progettato per un omaggio a lui, quando era ancora in vita, qualche giorno prima di morire, lo hanno accreditato alla Cineteca Nazionale del Messico. Da là viene a Trieste, è un regalo che ci ha fatto Gabriel, perché ce l'ha trasmesso proprio 3-4 giorni prima di lasciarci. Un grande omaggio poi a Santiago Álvarez, il più grande documentarista cubano, forse il più grande latinoamericano di tutti i tempi. Il documentario lo ha fatto Silvio Tendler, che è un grande regista brasiliano. Si chiama Santiago de las Américas o El Occhio del Terzo Mondo. Poi c'è una cosa che è meravigliosa, 11 film sulla problematica ebraica in America Latina. Siccome noi abbiamo un accordo con il Museo della Memoria Ebraica di Trieste, questi film verranno comunque proiettati da loro in streaming. Quindi vedi, è un programma molto ricco. È un'occasione unica, perché la gente potrà vederlo dovunque si trova in Italia. Noi siamo stati autorizzati a mandare sull'Europa e sulle Americhe 51 film, ma gli 87 potranno essere visti online in Italia entrando a movies.com, e le apparirà la pagina del festival e si lo potranno godere, perché saranno disponibili 24 ore quelli non autorizzati e 48 ore quelli che sono stati autorizzati per i due mondi. Tutte le informazioni sono sul vostro sito internet, giusto? CineLatinoTrieste.org. Lì c'è tutta l'informazione, come mai prima è 35esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste su MOWIS dal 7 al 15 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore Rodrigo Diaz. Un abbraccio in bocca al lupo e a risentirci presto. Giorgia Boldrini, direttrice artistica della settima edizione del festival Mente Locale, Visioni sul Territorio, su docacasa.it dall'11 al 15 novembre 2020. Giorgia, ben trovata. Grazie, grazie dell'invito, ben trovati. È un festival che contattiamo per la prima volta, raccontiamolo. Ma sì, siamo molto contenti perché nell'anno terribile in cui siamo, il fatto di essere online ci porta anche ad ampliare un po' il nostro raggio d'azione. Noi siamo un festival piccolo ma ambizioso, diciamo, che nasce tra le colline di Bologna e di Modena come il primo festival italiano di racconto del territorio attraverso l'audiovisivo. Nasce dall'esperienza di un'associazione culturale che di questo si occupa, quindi Mente Locale Visioni sul Territorio nasce in alcuni comuni tra la provincia di Bologna e Modena, un festival diffuso, e raccoglie con un concorso internazionale lavori audiovisivi che raccontano il territorio, non solo il nostro naturalmente, ma territori di tutto il mondo. Ci piace incontrare autori, incontrare sguardi e riflettere insieme, incontrarsi. Ci piace molto farlo di persona. Quest'anno, come sappiamo, non è possibile, ma cerchiamo di vedere il lato positivo e il fatto di essere su questa piattaforma che ha fatto la DER, l'Associazione dei Documentaristi dell'Emilia Romagna, ci permette di essere online per chi ci vuole vedere da tutta Italia o, perché no, da tutto il mondo. Quante sono le opere ospitate? Quest'anno le opere in concorso sono 22, sono qualcuna in più rispetto agli altri anni, perché gli altri anni avevamo un programma molto ricco anche di incontri, addirittura degustazioni, camminate, cioè momenti conviviali per incontrarsi con gli autori e con il pubblico. Quest'anno abbiamo dovuto rinunciare a quella dimensione, quindi abbiamo scelto qualche lavoro in più. Abbiamo 22 opere in concorso, abbiamo tante anteprime nazionali, due anteprime assolute. Abbiamo tanta varietà. La maggior parte dei lavori, 9 su 22, raccontano l'Asia in tante sfaccettature. Si va dall'allevamento dei cervi, il taglio delle corna dei cervi nei Monti Altai in Russia, una pratica abbastanza barbarica, a sguardi sulla Cina, sulla gentrificazione nelle città cinesi o sullo scioglimento dei ghiacciai e il problema dell'acqua tra il Kirghizistan e il Kazakistan. Questi alcuni degli sguardi sull'Asia. Ma non mancano, come dicevo, anche sguardi sul nostro paese. In particolare ci sono due anteprime assolute. Una, Through the Lens, racconta le isole siciliane, le isole intorno alla Sicilia, le isole minori, attraverso le lenticchie. Cioè, un modo per raccontare il territorio attraverso chi coltiva le lenticchie. Quindi le storie delle persone, le storie della cultura materiale, perché questo ci interessa, trovare sguardi che raccontano i territori. Ci saranno possibilità di interazione con il pubblico in visione, magari incontri con autori, autrici? Assolutamente sì, ovviamente come quasi tutti usiamo la piattaforma Zoom, abbiamo previsto tre momenti di incontro, naturalmente si può anche seguire il festival attraverso i social, attraverso la nostra pagina Facebook, scrivere mail e noi cerchiamo di mantenere viva l'interazione. Ma per chi vuole partecipare a queste, diciamo, sale virtuali, il primo incontro è venerdì alle 18.30 ed è un incontro dedicato al tema della terza giornata di venerdì, la regione ospita è la Sardegna. Oltre ai film in concorso, e avremo un incontro con l'autore e il protagonista di un bel lavoro sulle fontane della Sardegna, Fontaneris, che racconta in maniera mirabile, secondo me, attraverso una specie di road movies, attraverso il territorio, il paesaggio e le fontane e l'acqua della Sardegna, e con la Film Commission Sardegna. Quindi chi vuole può seguirlo e anche interagire. Il sabato avremo un momento proprio di networking con tutti gli autori dei film in concorso che vorranno essere con noi, sabato alle 18.30, e la domenica alle 18.30 la premiazione con i vincitori e i partner del progetto. Abbiamo tanti premi

Anzitutto vi segnalo un po' di novità dal catalogo. Ottobre-novembre abbiamo e faremo molte nuove acquisizioni, tra cui anche vi segnalo che da alcune settimane abbiamo il maestro Franco Piavoli, come forse avevo raccontato la volta scorsa, e finalmente lanceremo anche Il pianeta azzurro, che è un film preziosissimo e per noi un immenso piacere accogliere nel catalogo di OpenDVB. Rispetto ad altre uscite ve ne segnalo principalmente tre. La prima è il libro di Pix, il documentario The Austerity del 2017, che fece letteralmente un record di incassi presente e proiezioni di sala, segno anche del fatto che il cinema indipendente può e deve continuare a poter, anche in questa fase complicata, raccontare la realtà, perché un pubblico c'è, una comunità c'è. Oggi, dopo, sull'esperienza di quel film, è uscito anche il libro, che non solo è una riproposizione di alcune parti dell'opera cinematografica, ma è anche un aggiornamento ovviamente rispetto all'ultimo triennio con la ciliegina finale di questa pandemia globale. Sul nostro catalogo si può richiedere sia il libro singolarmente che il cofanetto libro più DVD, perché ovviamente anche il film continua a essere uno strumento molto importante per cogliere tutta una serie di criticità di quello che è oggi l'Unione Europea. Un'altra uscita nuova che ho piacere di segnalarvi è On the Wild Side, è un documentario legato al mondo della caccia e del bracconaggio, ovviamente in senso critico, nel senso che non abbiamo avuto mai opere che toccassero il tema della tutela degli animali, comunque lente critica su queste pratiche decisamente obsolete come la caccia, che ormai è semplicemente a tutti gli effetti uno sport e un hobby. Questo film è un film che, anche grazie al supporto di diverse ONG attive nel settore, ha fatto già un giro festival internazionale molto importante e finalmente si apre a una fase on demand per arrivare un po' nelle case di tutte le persone interessate al tema. Il terzo, ma non meno importante, novità di questa settimana, invece proprio fresca fresca, è che tra tre giorni lanceremo ufficialmente l'on demand di Milky Way, il nostro film che ha vissuto, diciamo, momenti anche molto difficili, nel senso che The Milky Way è il film che abbiamo girato come SMK Factory sulle Alpi italo-francesi e il cui tema centrale è il processo migratorio odierno dei ragazzi che arrivano dal Mediterraneo, dalla Libia e quant'altro, nel momento in cui vogliono provare ad attraversare le Alpi per andare in Francia. È un film che iniziò la sua tournée molto bene a febbraio con 5 sold out in tutte le anteprime e poi purtroppo incontrò la pandemia come tanti altri film indipendenti e con le sale chiuse. Il film ha fatto una seconda fase di tour nella fascia maggio-ottobre e adesso, come tanti altri autori e autrici indipendenti, si trovano a fare i conti con questa nuova chiusura. Anche per questa ragione abbiamo valutato di inserirlo dopo il DVD per rendere comunque fruibile il film sia in streaming che in home video, quindi con il cofanetto. Sempre legato a questa riflessione, ci tenevo molto a segnalarvi invece il nostro comunicato stampa, che trovate sul blog di OpenDVB, relativo ovviamente a ciò che è accaduto in queste settimane, nel senso che c'è poco da girarci intorno. Questa nuova chiusura delle sale e dei teatri sarà un ulteriore colpo durissimo, e un ulteriore significa che ce n'è già stato uno dal quale non tutti stanno riuscendo a uscirne, a tutto un sistema di distribuzione e di diffusione del cinema mainstream e indipendente. Ovviamente il mainstream ha altre possibilità o comunque delle risorse diverse che possono potenzialmente permettergli di sopravvivere. Il cinema indipendente chiaramente ha una situazione molto più fragile e delicata, sia per chi lo produce, sia per chi lo distribuisce, sia per chi ha una sala cinematografica di sé in una città del territorio italiano che in questo momento si trova in un momento di seria difficoltà. Noi, non appena sono uscite queste nuove notizie sulla la nuova chiusura, che tra l'altro avveniva dopo mesi in cui le sale hanno dovuto spendere fior fior di soldi per adeguare le normative anti-Covid, si trovano quindi un doppio danno sulle spalle, e in questo comunicato senza arroganza, perché ci rendiamo molto conto che il momento è molto caotico, il quadro non è chiaro su tanti aspetti, compreso quello sanitario ed epidemiologico, e non siamo sicuramente, non è nel nostro stile